sono costretto a barattare incatenato al confessionale. Sono costretto a barattare la mia anima regalata per carta straccia colorata. La mia anima regalata per carta straccia colorata. Confessionale. Confessionale.